sveglia un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. Queste chiamate te, dagli ingannati sensi, a cui primo te incensi, lode voler ragion, lode voler ragion, lode voler ragion. Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son molte vezzose, son morse benigne, colombe maligne, maestre ingadi, amiche da pene che fingono, mettono amore, non sentono pietà, non sentono pietà, no, no, no, no. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son, son streghe che incantano, questo non dico, sirene che cantano, questo non dico, civette che allettano, questo non dico, comete che brillano, questo non dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son dorse belline, colombe maligne, maestri ingane, amiche da fani che fingono mente d'amore, non sento, non sento pietà, non sento pietà, no, no, no, no, il resto lo dico, già ognuno, già ognuno lo sa, il resto lo dico, già ognuno lo sa. Già ognuno lo sa, già ognuno lo sa, già ognuno lo sa.